Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, state ascoltando Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, o se preferite una trasmissione per una società non violenta. Questa è la puntata numero 464, nella quale parleremo di nonne antispeciste, zebre che non attraversano sulle strisce, piloti influencer e scarafaggi alla pechinese. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Spiegato a mia nonna è una nuova rubrica che proponiamo per avvicinare chi ci ascolta a questa nuova prospettiva, una prospettiva ancora in costruzione che si propone di evidenziare i molti parallelismi tra questioni intraumane e questioni relative allo sfruttamento degli animali. Abbiamo chiamato a collaborare per questa rubrica persone che avevano già prodotto dei materiali per la nostra trasmissione. Non si tratterà di pensieri nuovi o particolarmente originali, molto è già stato scritto e diffuso. Qui la novità consiste nella forma radiofonica e nella selezione di autori e autrici che riteniamo particolarmente interessanti da ascoltare. Nella scorsa puntata l'autrice Benedetta Piazzesi ha svolto una riflessione critica e articolata sul parallelismo tra olocausto nazista e olocausto animale. In questa puntata abbiamo un sequel, sempre a cura di Benedetta Piazzesi, che ci proporrà un esempio concreto, un fatto, un episodio realmente accaduto al quale poter collegare le sue riflessioni. Ecco il risultato. Perché sei morto? L'antispecismo spiegato a mia nonna. Nel buio della notte tanti occhi scintillanti indicavano dove aprire. L'odore di morte nell'aria significava che le uccisioni erano già iniziate. Non c'era decisamente tempo da perdere. Lo sapevamo noi, lo sapevano gli altri animali, che in pochi balzi sono usciti, correndo verso la recinzione, che, ormai rasa al suolo, non segnava il limite della prigionia, ma l'inizio della libertà. Leggo queste parole dal testo di una rivendicazione dell'Animal Liberation Front, raccolta insieme a molte altre dal sito directaction.com. Si tratta di una liberazione di visoni allivati per la pelliccia. È noto ormai come i visoni ogni anno, poco prima di Natale, vengano eliminati in delle piccole camere a gas. simili a quelle da cui probabilmente proveniva l'odore di morte di cui parla il comunicato. Ciò nonostante, le liberazioni di visoni sono da sempre una delle pratiche più contestate dell'animalismo. Perché, si dice, i visoni sono animali nocivi in quanto non autoctoni. Ma più di tutto perché quelle degli animali allevati per la pelliccia, insieme a quelle della selvaggina da ripopolamento per la caccia, sono tra le poche liberazioni che costituiscono, in quanto liberazioni di massa, una vera minaccia economica per l'industria zootecnica. L'immagine delle centinaia di zampe, indocili e persino aggressive come sono quelle dei visoni, che in massa balzano giù dalle gabbie squarciate, è, mi sembra, degna di contrastare quella insostenibile degli stermini di massa dell'epoca contemporanea. Sappiamo che la politica ha ormai adottato i social network per diffondere i suoi orientamenti. Facebook e Twitter in particolar modo vengono utilizzati dai politici di oggi. Anche se noi non siamo dei fanatici dei nuovi media, riteniamo significativo il fatto che il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli il 16 dicembre scorso abbia postato su Facebook una riflessione sugli animali utilizzati nei circhi. Il testo del messaggio era questo: so che il desiderio di molti di voi è che gli animali non vengano più usati negli spettacoli circensi. È un desiderio che condivido anche io e che diventerà realtà nel più breve tempo possibile. È una delle mie priorità. È vero, esiste già una legge, ma il governo precedente non ha provveduto a fare i decreti attuativi, ovvero quegli strumenti normativi che permettono a quella legge di diventare operativa. Appena arrivati al governo non abbiamo trovato neanche una bozza. Noi comunque ci siamo messi subito al lavoro, ma ci vorrà un po' di tempo. Intanto abbiamo messo in campo una collaborazione tra il MIBAC e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, guidato dall'amico e collega Sergio Costa, per far sì che gli animali, una volta lasciati i circhi, possano trascorrere il resto della loro vita nel miglior modo possibile e in luoghi idonei. Infatti sappiamo, aggiungiamo noi, che uno dei problemi della liberazione degli animali attualmente schiavizzati nei circhi è quello di poterli collocare in luoghi idonei. Non è così semplice, dato che spesso si tratta di animali esotici e di grossissima taglia. E poi conclude così il suo messaggio Facebook il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli, dicendo: il mio obiettivo è quello di raggiungere questo risultato nel più breve tempo possibile e i primi passi li stiamo già facendo. Di buone intenzioni noi ne avevamo già sentite molte, a questo punto ci piacerebbe che si passasse dalle parole ai fatti. Per noi tutte queste appunto sono solo parole, mentre per loro, cioè per gli animali schiavizzati nei circhi, è una questione di vita o di morte, anzi forse faremmo meglio a dire è una questione di non vita. Yeah. Restiamo in tema di zoo e andiamo in Germania, dove a Dresda quattro zebre sono riuscite a fuggire da un circo natalizio giunto in città e si sono date alla fuga. La notizia, per come è stata data, naturalmente enfatizza i disagi per chi si trovava alla guida, nel traffico e per le forze dell'ordine. Non una parola per i disagi subiti dalle zebre nei circhi e per la totale insensatezza delle zebre nei circhi e negli zoo alle nostre latitudini. Un habitat che per loro deve sembrare molto più assurdo di quanto non sembrino a noi quattro zebre nel centro di Dresda. I poliziotti, alla guida delle loro cosiddette gazzelle, si sono dunque lanciati all'inseguimento delle zebre. A rinforzo si sono uniti anche alcuni agenti a cavallo, pensiamo anche ai cavalli, costretti nel traffico a inseguire delle zebre. Ma anche a loro va il nostro pensiero solidale. Più che altro volevamo evitare danni e incidenti sulle strade, ha dichiarato uno dei poliziotti ai media, ma il problema era che gli animali correvano ognuno in una direzione diversa. Le quattro zebre sono state poi circondate e catturate un'ora e mezza più tardi e infine ricondotte al circo. Povere zebre. Uno degli agenti ha riportato una lieve ferita, una delle zebre l'ha colpito scalciando e questo resterà l'unico segno tangibile di una ribellione tanto urgente quanto inattuabile. C'era razdrosar sobila, tu vale a setrar, tu vale bit shebosi, shega me bit kanari. Krol viti tevs cis per alada devs, da heb shi aksus. O se chubi a stelas, gera tzame haravar. Lewis Hamilton, 5 volte campione del mondo di Formula 1, vegano per scelta etica da circa un anno, denuncia le condizioni dei macelli. Sì, avete capito bene, Lewis Hamilton da circa un anno utilizza i social per esortare i suoi 7 milioni di seguaci a considerare la vita degli altri animali. A luglio postò un messaggio di questo tenore. 619 milioni di esseri umani sono stati uccisi durante le guerre nella nostra intera storia documentata. Gli esseri umani uccidono lo stesso numero di animali ogni 5 giorni. E il 10 dicembre scorso Hamilton ha postato immagini di ciò che succede ogni giorno nei macelli di tutto il mondo. Quindi ha postato animali sfruttati, uccisi, usati e buttati come se fossero rifiuti, smaltiti come se fossero cose e non invece vite. Questo purtroppo non è una situazione criminosa, osserva qualcuno su Facebook, ma è la norma in quello che è chiamato il ciclo della carne. E Lewis Hamilton, il pilota di Formula 1, lo ha voluto rimarcare al mondo intero, ha voluto ricordare la tanta crudeltà troppo spesso taciuta e ha fatto capire che si può benissimo vivere da campioni scegliendo anche di essere vegani, con tutti i limiti e le contraddizioni che certamente ciascuno poi incontra nel mondo reale. Quindi bravissimo Lewis Hamilton, al quale la ricchezza materiale evidentemente non impedisce di coltivare anche una ricchezza di valori. Oggi parliamo di una canzone scritta da una vegana e reinterpretata da un vegano. Back on the Chain Gang, un brano del 1982 dei Pretenders, quindi di Chris Hynde. Anno un po' disastroso per il gruppo, poiché James Honeyman Scott, il chitarrista, muore per un'overdose, mentre il bassista ha grossi problemi di droga. La canzone Chris Hynde l'aveva dedicata proprio alla memoria di Honeyman Scott e nel 2018 la ricanta Morrissey ed è contenuta nella versione deluxe, come si usa dire, del suo ultimo album. In apertura della puntata abbiamo ascoltato la versione originale e adesso sentiamo la cover. We'll be right back. Gentile, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, è a tema e il tema di questa settimana non può che essere il Natale. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said, I'm dreaming of a white Christmas. Mancano pochi giorni a Natale e puntuale, come i contributi dell'INPS, ecco la tradizionale ricetta vegan per festeggiare senza crudeltà. Mettete su un pezzo di Bing Crosby, Michael Bublé o una canzone qualsiasi dell'ultimo disco della Raffa Nazionale e preparate il Christmas Mince Pie. Gli ingredienti per una decina di monoporzioni o una teglia da 22 cm sono: per la pasta 300 g di farina, 200 g di margherina autoprodotta o burro di soia, un bel pizzico di sale, un cucchiaio di zucchero di canna e 90 ml di acqua ben fredda. Per il ripieno, 50 g di prugne o albicocche essiccate, 50 g di arancia candita, 20 g di mandorle pelate, 100 g di frutti rossi essiccati, vanno bene mirtilli, ribes o mori, 100 g di uvetta, della scorza di limone grattugiata, un cucchiaino di cannella in polvere, un cucchiaino di zenzero fresco tritato oppure secco in polvere, un pizzico di noce moscata, 90 g di zucchero di canna, una mela, 50 g di margarina autoprodotta o burro di soia, 100 ml di brandy o sherry o rum. I'm dreaming of a white Christmas. Per prima cosa, abbiate cura di preparare il ripieno dei dolcetti almeno con 2 giorni di anticipo, poiché avrà bisogno di un lungo tempo di riposo. Col coltello macinate le mandorle assieme all'arancio candito e le prugne o le albicocche essiccate. Unite frutti rossi, l'uvetta e la scorza di limone. Mescolate il tutto, quindi aggiungete le spezie, lo zucchero e la mela che avrete precedentemente sbucciato e tagliato a pezzi molto piccoli. Infine unite il burro di soia che avrete lasciato sciogliere, mescolate e aggiungete il liquore. Versate l'impasto in un vaso di vetro e coprite con della pellicola. Lasciate marinare a temperatura ambiente per un paio di giorni, ma meglio 3 o 4, mescolando 2 o 3 volte al giorno. A questo punto preparate la pasta, unite tutti gli ingredienti in una ciotola e lavorate velocemente con le mani, avendo cura di utilizzare acqua ben ghiacciata. Lavorate fino ad ottenere una pasta morbida e liscia che lascerete riposare un'ora in frigorifero avvolta nella pellicola. Stendete la pasta ad uno spessore di 3 mm circa e con l'aiuto di un coppapasta ricavate dei dischi, se preferite anche smerlati, di circa 10 cm di diametro o se preferite foderate un'unica tortiera. Disponete ogni disco in stampini per crostata o in uno stampo da muffin e farcite generosamente con il ripieno. Con il resto dell'impasto realizzate la copertura. Potete fare delle strisce come per una crostata o una o due stelle dando un tocco natalizio ai dolcetti. Una volta sigillati lasciate riposare ancora 30 minuti in frigorifero, quindi infornate a 170 gradi per circa 40 minuti. Togliete dal forno e lasciate intiepidire. Buon appetito e buone feste! Gli scarafaggi potrebbero rivelarsi estremamente utili per smaltire i rifiuti. Secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, nella periferia di Jinan, gli scarafaggi vengono addirittura allevati in ambienti caldi e umidi, ideali per il loro habitat, e addomesticati per abituarli a mangiare rifiuti. La Cina, infatti, ha un enorme problema con lo smaltimento di rifiuti. Solo Pechino produce circa 25.000 tonnellate di scarti ogni giorno e sono molti più scarti alimentari di quanti ne possano smaltire le discariche. Per cui si è pensato di farsi aiutare dagli scarafaggi. Nell'impianto di Jinan, periferia di Shandong, si allevano circa 1 miliardo di scarafaggi ai quali vengono fornite 50 tonnellate giornaliere di rifiuti alimentari. Il ciclo di utilità di questi insetti è particolarmente interessante da un punto di vista economico, perché prima possono essere usati per smaltire i rifiuti, poi quando muoiono possono essere passati ad altre aziende che li trasformano in mangime proteico destinato a maiali e altri animali di allevamento, ma anche in farmaci. Nonostante questo, gli studiosi raccomandano molta cautela. Se questi scarafaggi riuscissero a evadere dalle strutture di allevamento, sarebbe una catastrofe. And you may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house.